per i medici che avevano concesso loro il giorno di permesso e di malattia. E quindi cosa dobbiamo farci? Cioè, quando cambierà questo nostro paese? Forse mai, ma noi dovremo continuare ad amarlo perché è il nostro paese, perché siamo italiani. È bene ricordare però che dietro ogni decisione esistono delle motivazioni, ovviamente, che andrebbero lette, no? Cercando di capire perché si è giunti a questa decisione. Cioè, una notizia presentata così: uno si sottopone a un trapianto, una persona si sottopone a un trapianto di fegato e viene licenziato, è riduttivo, cioè bisognerebbe cercare di capire, visto l'enormità della notizia, perché sia stato licenziato. Allora, perché loro dicono che non era più idoneo, no? Per portare avanti questo lavoro. L'idoneità Mette da un'altra parte. No, ma certo, io non sto giustificando questa cosa, però è un po' come i titoli a effetto, no? Che i giornali, o le sentenze, quando si dice attendiamo di poter visionare le motivazioni di tale sentenza, è importante, perché sennò altrimenti ognuno trae le sue conclusioni. Beh, io non voglio far insorgere nessuno, ma comunque c'è sempre una differenza di trattamento tra pubblico e privato. Dai, su. Ale. E sbilanciati un attimo, Venegoni, sono gli ultimi due giorni insieme. Ma no, ma è vero, bisognerebbe sempre andare a fondo delle cose, altrimenti se si rimane in superficie non si arriva da nessuna parte. Backstreet Boys, belli e bravi, su Radio Monte Carlo, Incomplete. Empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. Carlo RMC. Cold enough to chill my bones. time or a timeout. I can't take the in-between, asking me for space here in my house. You wanna hop with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant. When we're kissing, I feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers, I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like solo l'amore, il resto ci poteva mancare. che il passato è migliore di quello che poteva sembrare allora. Ma tu chi sei? Che cosa vuoi? E come mai mi pensi? Non sono io, nemmeno lei, ma i cieli sono immensi. E riderà guardando il mondo con la felicità di quando il cielo immenso. E mai dimenticare quel che ci ha fatto vivere. Puoi dirsi addio oppure mai, ma i cieli sono immensi, immensi. Cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia. La voce di Patti Pravo su Radio Monte Carlo, la sua Cieli Immensi, un paio d'anni fa al Festival di Sanremo. Abbiamo avuto la fortuna di poterla incontrare, di poterla intervistare, perché lei è stata un po' la vera diva del 66esimo Festival di Sanremo con questo pezzo, Cieli Immensi, scritta da Fortunato Zampaglione. Io, se mi permetti Max, volevo aprire una piccola parentesi, perché sono veramente emozionata dalla dimostrazione d'affetto da parte dei nostri ascoltatori, e quindi volevo ringraziarvi, perché sto ricevendo veramente, posso dire, centinaia e centinaia e centinaia di messaggi attraverso i social, attraverso gli sms, attraverso le telefonate al centralino. Da lunedì ci sono, sarò ancora qui su Radio Monte Carlo dalle 7 alle 10 con i ragazzi del mattino, quindi insomma avremo la possibilità di condividere ancora tantissime tantissime ore insieme, anche se la coppia Max Venegoni e Monica Sala si scoppia. E allora 7 minuti a alle 10:30 parlavamo di Patti Pravo, tra le tante canzoni che si cantano, perché no, anche Sotto la doccia. E sotto la doccia, beh, c'è una canzone che stiamo per ascoltare, si tratta di saperla indovinare per vincere una delle nostre t-shirts. E allora mandate subito, insomma, prenotatevi, telefonate, mandate i vostri sms, fate quello che dovete fare, perché giocheremo appunto e cercheremo di individuare qual è la canzone di oggi. 800, qual è il numero verde, Max? Non me lo ricordo più, 800 04 64 64. Lo gioco all'otto. Gioco di stazione. Radio Monte Carlo. Grande musica. That you're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Say you're my heart bound tonight. Just hold on me, baby. I've been having a heart. It's your move, oh, baby. Baby, please stop. Whatever you want from me, I'm giving you everything. I'm your baby tonight. You're giving me ecstasy. Me, I was ready to die. I've never been fatal. You're the first time. I feel like an angel who just started to fly. Well, you know you got a way that you're making me feel I can feel I can do. Hold on and enjoy the ride. I'm shining, no hope. sì, sì. Almeno una volta nella vita abbiamo tutti detto I'm your baby tonight, no? Allora, sigla! Canzoni sotto la doccia. Sì. E andiamo? Bagno schiuma, di quelli ecologici, è tutto pronto per andare tutti quanti sotto la doccia con Rina, che ci ha telefonato da una meravigliosa città, da Firenze. Ciao Rina! Ciao Monica, ti saluto, meno male tu, ho beccato te, guarda, così saluto. Io ti chiamo sempre, ti scrivo sempre. Comunque, grazie Rina. Senti, ma tu sono una di quelle. Grazie. Di quelle che sentirà la tua mancanza. Comunque va bene, benvenuta a Rosaria. Io ci sono, devi solo svegliarti un po' prima. Perché all'alba però. Va bene. La ricorderemo sempre, ma sarà sempre lì. Certo, grazie. Sarà sempre lì. Una cosa sola, sì, se sì, non altro ti devi ritorno questo. Allora Rina cara, virgola. Rina. Allora, attenzione che sentiamo la canzone da indovinare. Sei pronta? Sì. Andiamo, via. No, che le fragole, perché la vita na, è tutto un equilibrio sopra la nana. Tutto l'equilibrio sopra. Allora, fermati Rina, e non buttarti, perché così non l'avrei riconosciuta neanch'io. Allora, ti ricordi quel film? Vasco Rossi, sì, lui. Sì, va bene. Va bene così. Lui è là, certo. Cazzo, c'è spiazzata. Rina, non sei brava, sei di più, Io ero già pronta ad aiutarti e avrei voluto dirti. Ti ricordi quel film, Harry, ti presento, eh? Ma esatto. Bene, Rina, bene. Allora, sì, ti mandiamo una delle nostre nuove t-shirt. Allora, grazie, ragazzi. E buona giornata. Ti ascolto tutti i giorni, tutto il giorno. La notte no, perché dormo. Senti, ma vi ascolto sempre, ragazzi. Ma sono 40 anni che vi sento. Grazie, Rina, grande. E continua vi così. Vi abbraccio e vi bacio. Anch'io. Ciao. Ce l'abbiamo fatta, incredibile. 10:35, Stevie Wonder. Adesso vado di là. E Ariana Grande. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. I got faith. Monte Carlo. As the cots and you lying, times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend, had it repeating, had it repeating. You were my September song. I think that I see her facing the strangest of places, down on the underground station, passing by. get a mad sense of danger. Feel like my heart couldn't take it. Cause if we met, we'd be strangers. You and I. Still, I play that mixtape every weekend. Got it repeating. Got it repeating. You were my September song. Summer lasted too long. Song JP Cooper su Radio Monte Carlo, un quarto d'ora e saranno le 11 del mattino. E questa sì, la devo per forza leggere. Sapete, sì, che ieri sono circolate vignette, battute, cose belle, cose serie, cose semiserie, no? In concomitanza con la festa della donna. Me ne è arrivata una che vi devo leggere perché è troppo divertente. Ogni anno 2 milioni di rametti di mimose vengono distrutti per la festa della donna. Uomo, ferma questo scempio, regala un diamante. Certo, certo, che poi è difficile da riavere, tra l'altro. Andiamo avanti. Solo musica di gran classe. Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. Dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti, pendo dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole, mi tremano le parole, amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso, muoio d'amore, meravigliosa. meraviglioso. Gianna Nannini, Radio Monte Carlo, meravigliosa anche lei creatura. Era sotto la doccia. Parlare, mentre io sto disannunciando il disco. Non cambi mai, Benegoni. Anche lei era sotto la doccia mentre cantava questo pezzo meraviglioso. E anche Gianna Nannini ha dedicato due post ieri su Twitter alla festa delle donne. E nel primo ha scritto: ogni donna è una dea. Ah, Cloud Nine. You pick me up. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home? bottle. She told me her old man committed a crime. He's doing time. Now she's hanging in the bottle. I seen her out there on the avenue all by herself. Sure need help from the bottle. I seen her. Preacher man tried to help her out. She cursed him out. Hit him in the head with a bottle. They turned to me and they said, and don't you think it's a crime? When time after time, don't you think it's a crime? When time after time after time, living in a bottle. Oh, living in a bottle. For me, you know where I'm bound to be, in a bottle. Say it again, yeah. If you ever come looking for me, you know where you can find me. And don't you think it's a crime? Grande successo nel tempo, ripresa da molti, è stato un grande successo. Era The Barrel, pochi secondi alle 11. È arrivato il momento di cedere la nostra linea alla redazione per l'indì. Welcome to Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, solo musica di gran classe. I can't forget. Tony Braxton, eccoci tornati dopo le notizie delle 11. Siete su Radio Monte Carlo, era Unbreak My Heart. Beh, questo è un pezzo che io metterei in sottofondo ad un incontro d'amore, no? No. Vabbè, lo so che la pensi come me. Vabbè, non lasciarti andare. E tra poco torneremo sulla Terra perché ci collegheremo con il nostro guru del digitale Marco Montemagno. Avete mai sentito parlare di Alexa? Ma che cosa sarà mai? Tra poco lo sapremo, grazie a lui. E adesso Robbie Williams, siamo già tornati alla musica su Radio Monte Carlo in questo giovedì mattino. Oh, love my life. Radio Monte Carlo RMC. What goes around comes back around.